Che ne dici se saliamo da me? Questa notte forse mai più. Non mi dire frasi come non lo faccio mai. Non sarò di certo io a cambiare ciò che vuoi. Come me siamo qui. Non ci credo, sei proprio tu.